Morirò solo una moonstar. Ehi, ok. Stare giorni con le mani in mano. Ehi, giorni in cui vorrei. Sparirò solo una moonstar. Ehi, ok. Stare giorni con le mani in mano. Ehi, giorni in cui vorrei. No, lo so, right. Se ti mollo poi ti accolli. Non so più che fare. Giro tondo quello che mi fai. E non sopporto se ti porto un po' come mi pare. Yo, non vale, yo. Questo male, sai, con le pare, yo. E non entrare con i miei. Non mi rivolano, non importa chi sei. Non so come ti chiami, oh yeah. Sono una moonstar, vengo dal cielo, si faccio cabumia. Tu che fai cuffia, ma che il talento non si compra col prime. Tu ci speri ancora. Sparirò solo una moonstar. Ehi, ok. Stare giorni con le mani in mano. Ehi, giorni in cui vorrei. Sparirò solo una moonstar. Ehi, ok. Stare giorni con le mani in mano. Ehi, giorni in cui vorrei. Bla bla, oh, mettere una giacca e fare fuoco in strada. Ehi, angelo, diavolo, sono due in uno, cara. Pensa bene prima di dirmi che sono troppo stro. Fuoco con acqua, questo sono. Forse nessuno sa cos'ho. Amici e cari fanno boh. E sparirà solo una stella, luna, ok. Non sto più con deciso, right. Io che no, non sapevo di stare in mezzo a dei guai. Più che poco, nemmeno quel poco da mio terrai. No, non preoccuparti, se un giorno sparirò solo una moonstar. Ehi, moonstar, ehi. Stare giorni con le mani in mano. Stare giorni con le mani in mano. Sparirò solo una moonstar. Ehi, oh, oh.